quando vendo cane quello che lo strappa, sai, è pesato, praticamente aggancia cosa aggancia, un centimetro e mezzo di filo, anche se si dovesse piegare dovrebbe rimanere appesa, e se invece nella sfila da quella specie di bloccaggio a brugola, e io stavo pensando anche quello, gliela me la metto alla parte alta dove la prima la montavo a turbo, prendo un filo di quelli da 4-5 mm, quelli di cotone, no, che sono resistentissimi, e l'attacco esternamente all'antenna, ogni 20 cm ci faccio una passata di nastro isolante, sino ad arrivare su, no? E dovrebbe anche, ci dovrebbe spezzare, rompere, si piega ma rimane sempre appesa, non cade mai per strada. Certo, quello sì, quello senz'altro, ma se vuoi irrobustire l'antenna puoi fare una semplice cosa, siccome non è conica quell'antenna lì, puoi fare una semplicissima cosa, prendi tutti gli elementi, li stacchi dentro almeno di 20-25 cm l'uno, tutti quanti, ok? Poi prendi un pezzo di canna da pesca e lo metti dalla parte terminale dell'antenna per recuperare quei pezzi. E l'antenna è a posto. Nodità arriva, dimmi. Ok, no, io l'avevo messo nella parte più critica, ci avevo messo un pezzo di tubo, quello rigido, quello da elettricisti, no, da impianti industriali, una trentina di centimetri, 30-40 centimetri, proprio per riportare la parte più critica, diciamo, dai. Poi l'ho nastrato sotto e sopra questo pezzo di tubo, e dunque non ho visto che regge bene, non, anche con vento fortissimo, perché qua sembra così, ma io davanti non ne ho case, perché le case sono tutte alla stessa altezza massima, più in alto non possono essere qua, perché il vincolo urbanistico è quello, non puoi fare su un palazzone alto, devi arrivare a quell'altezza e basta. Per cui è tutto libero, tutto attorno, è tutto libero, anche se sono in basso, però è tutto libero, dunque il vento le prende, tant'è vero, io da sopra il tetto vedo benissimo il mare, no? E quello è quello che stavo pensando, se quasi quasi ci metto questo, perché a metterlo ancora più in alto andrebbe meglio sicuramente, cioè dove c'avevo prima la mantova turbo, che la posizione, diciamo, che era stata studiata a suo tempo per poter mettere l'antenna, però non l'ho mai messa, è in terrazzo, è molto più in basso di quanto dovrebbe stare, è almeno 5 metri minimo e 5-6 metri più in basso. Va bene, avanti Gianni. Ehi, c'è anche Claudio Benito, dai, facciamo andare avanti a Benito che parcheggio qui, per girare per Claudio. Io già sto ascoltando, dai, avanti, vieni, gappa. Avanti Claudio, le prendo io, sono tutti quanti. Luca, sì, non le prende più nessuno, ucciso. A volte ha parlato troppo. No, io intanto a Claudio io non l'avevo ancora sentito, primo. Benito l'avevo già annunciato che era in stand-by un attimo, ancora precedentemente a quest'ultimo passaggio che ha fatto, per cui è per quello che non l'ho rilanciato. Luca magari, Luca, aiuto, esci una fula. Vedi per la frutta. Vabbè. Deve essere anche lui sta facendo qualcosa. Vabbè. Quelle antenne vanno bene, perché vanno bene, non hanno stazionarie, qua adesso non ha più punte e cose, c'è sempre uno di stazionari, non si muove in nessun canale, proprio sul 45, anche attaccando la parata Cicicocco non si muove, capito? Lo so. Guarda, se tu vai con i 5 watt per tutta la gamma della 27 non ci sono stazionari, è sempre lo stesso, 1 e 1, può arrivare 1 e 2 in qualche canale, ma niente di più. Certo, se poi metti un po' di watt è ovvio, ma è normale che allora aumenti grosso, ma aumenta sempre nei limiti, cosa arriva? Può arrivare a 1 e 3, ma niente di più. E stavo dicendo, no, ma è una buona antenna, la verità, mi soddisfa per le mie esigenze, mi va bene, però ho perso in ricezione, e mi spiego meglio Gianni, io con la mantova turbo riuscivo ad ascoltare anche le bande radioamatoriali tranquillamente, ma a livello anche di 9,920 addirittura come segnale mi arrivavano. Adesso quando ascolto su quelle bande, massimo arrivano Santiago 3, 4, esagerando, quando qualcuno mette un po' di potenza. Ecco, è quello, io la ritengo un po' sorda in ricezione per le altre frequenze. Tu mi dirai, ma intanto le altre frequenze cosa ti interessa? No, solo per ascoltare, niente di più, mi interessava solo per ascoltare. Infatti dovrò trovare la soluzione, se voglio ascoltare, o faccio un dipolo e metterò un dipolo sul tetto, oppure mi rimetto la mantova turbo, però me la rimetto senza i radiali, solo lo stilo centrale. Però a quel punto sono costretto a fare un'altra discesa, un'altra calata di cavo coassiale, perché se no, se devo ascoltare, non è possibile cambiare l'antenna da un punto all'altro. Due linee di discesa, va bene, dai, vedremo un po'. Poi per il resto devo dire che va bene, la verità va bene, non ho niente da dire. Avanti Luca. Registrato, va. Avanti break. Ciao Luigi, io ti ascolto bene. Proprio, ma che ti devo segnare. K, Santiago 9, Radio 5. K, sì, con quella apparecchiola che viene, va benissimo anche la modulazione. Giulio, ti volevo, vabbè, saluta gli amici, poi devo rispondere a te. Ok, ciao Lupo Grigio, Nicola, se ricordo bene, sì. Sì, diciamo che già ti ascolto, la radio è sempre bassa, però già ti ascolto, dai, sperando sempre di incontrarci quando c'è poco QRM come oggi. Ciao Nicola, ben entrato. Avanti Luca. Beh, riprendo io, ti voglio rispondere a quello che hai detto dell'antenna. Allora, quell'antenna lì è sorda, però non senti manco QRM, a confronto di altre antenne che ti dice il QRM alto, è sorda anche in quello, quindi va bene per quello, perché non senti il QRM. Poi diciamo che per migliorare la ricezione, Giulio, io ti consiglio, come tu saprai, un amplificatore d'antenna e risolvi il problema. Sì, quello sì, sicuramente potrebbe essere utile un amplificatore d'antenna, ma io per la 27 non ho problemi, mi va bene così. Io stavo pensando ad ascoltare anche ad esempio in 40 metri, in 80 metri, la notte. Quello che, come facevo prima, mi mettevo le cuffie e la notte magari ascoltavo in 80 metri, oppure durante il giorno anche in 40 metri, tranquillamente ascoltavo senza nessun problema, quando magari non c'era qualcosa di interessante nella 27, perché l'ho sempre usato io come ricevitore. Adesso con questa antenna non sento, infatti tante stazioni non ne arrivano, o meglio arrivano bisbigli con parole che non capisci perché è troppo basso, mentre invece prima, ripeto, anche a 9, 9.10, 9.20 anche ne arrivavano, tutta un'altra sensibilità alla mantova turbo, non lo so, sarà perché era nella posizione più alta, a differenza di adesso che è nella posizione più bassa della casa, non lo so, sarà anche per questo, però la sensazione che sia sorda, questa ce l'ho, perché non nessuno me lo toglie dalla mente. Poi che va bene in 27, non ci sono dubbi, va benissimo per tutta la 27, ottima, veramente ottima, soprattutto la notte quando c'è vento, lo sento il rumore dei flusci, di radiali, eccetera eccetera, perché prima la mantova turbo con i radiali era un tormento la notte, per carità, non si poteva, dai. È per quello che l'avevo tolta praticamente. Va bene, facciamo girare, vediamo se è rientrato Luca, se no riprendi tu dopo Nicola. Avanti Luca. Ma ho visto che hanno fatto questo anello per questa antenna, per i radiali. Ehi, l'ho vista quell'antenna, mi piace anche. E mi sa che me la ordino, me la tengo come riserva. La Blizzard mi sembra si chiama. Sì, Blizzard, 130 euro. No, 827 della Sirio quella, che ha quell'anello che sostiene i radiali. Sì, è interessante come sistema. Quella ce l'ha Marco, ce l'ha mi. No, non Marco, l'altro Marco. Ce l'ha ha lui quell'antenna? Sì, ma guardate, questa qui è il modello nuovo, è il modello nuovo che hanno fatto. E stavo guardando il forum per vedere come va, eccetera, eccetera. Mi stava... perché i radiali sono anche più corti. Questo non te lo so dire, la misura dei radiali sono probabilmente più corti, come stai dicendo tu, ma questi della Montalva Turbo sono 1,60 m, te ricordo bene, una cosa del genere, ne ha 8, ma sono dei tubi buoni, perché ho visto che una volta c'era una... una cerchiata di coso, di piccioni sopra l'antenna, sul radiale, ha fatto il povero radiale, invece non gli è successo niente, anzi non l'ha nemmeno piegato, perché sono da 10 mm e sono a tubo però, non è pieno, è un tubo da 10 mm, a differenza di altre antenne magari che sono a 8 mm e resiste di meno. E poi hanno anche un altro particolare, che sono messi praticamente a squadra con lo stilo centrale, non sono inclinati come solitamente erano. Aspetta. Va bene, dai, comunque è una buona antenna anche quella, non ci sono dubbi, però ripeto, il rumore a me la notte mi dava fastidio per quello che ho tolto. Avanti Luca. Allora, tra l'altro quell'anello lì della Blizzard, perché la Blizzard che c'ha questo anello qui costa una cazzata, 13 euro costa, Giulio. Sì Luca, ma non è una questione di soldi, no? Anche se costasse 20 euro, 30 euro andrebbe anche bene. Il problema è, si può montare sulla Montalva Turbo interrogativo, è quello il problema, o Luca? Non lo so, perché a quanto ho capito io sono due anelli, cioè un anello diviso in due, dove poi vai a incasso con i radiali. Se i radiali non sono perfettamente a misura come quelli della Montalva Turbo, non va bene, no. Li potrei modificare, quello senz'altro. La scanalatura gliela fai come serve a te per la Montalva Turbo. E comunque c'è anche completa l'anello. No, la completa costa 130 euro. Sì, è vero, non costa tanto. Non paga per 170, io credo che sta qua. Da fatto la lampada San Costello, non tu mi è durata più sospettata. Se l'ho spezzata, ma sfilata. E non sai cos'è, già. Probabilmente io sono del parere, non lo tenere sulla testa, che è stato entrato troppo poco l'elemento, che deve essere stato lasciato tutto in cima e per quello che c'è. Perché ha preso l'ultima parte dell'elemento, si è filato solo l'ultima parte, non è che si è filato tanto, solo il pezzettino dove c'è il tacco, eccolo lì, io l'ho entrato fin dentro, quello lì adesso, e gli ho messo tre fascette, non si muove né manco. Sì, ma ti ho detto, l'altra soluzione è quella lì, innanzitutto fare non due tagli ma quattro. Nella struttura, quattro tagli, perché due col tempo si filano, capito? Quattro tagli ci vogliono dove stringe la fascetta, e più lunghi dell'originale anche. Poi, secondo sistema è entrare almeno 20-25 cm ogni pezzo, e il resto, quando arrivi in cima, metterci un pezzo di canna da pesca. Vai tranquillo, e così il vento lo tiene. Sì, perché il fatto che gli elementi entrano troppo poco, sino arrivare a mettere in tiro il filo, entrano troppo poco secondo me. E cosa è quello? Però ci sono le misure tra un elemento e l'altro, e quello noi non l'abbiamo rispettato, è quello lì che secondo me è andato male. Che dalla fretta l'abbiamo piazzato e non abbiamo rispettato le misure che ci sono, perché tra un elemento e l'altro c'è una misura obbligatoria da mantenere. Adesso vabbè, gli ho messi l'acciaio, le fascette sono quelle più furbi. E infatti tu adesso se la devi smontare, fatti un segno col pennarello in tutti i pezzi, poi li togli e guardi la differenza che c'è da uno e là all'altro che avete messo. Però sicuramente magari hai messo di più uno e meno l'altro, perché se non segui le misure poi di cima devi arrivare in tiro appena appena, in modo da mettere quella boccola che c'ha con la brugola. Ma se tu fai come ti stai dicendo io, vedrai che ti trovi bene. Ma non è tanto questa mentira, perché dice di non metterla troppo in tira, anche perché quando c'è il vento che piega, il filo se lo tira, quindi non lo devi mettere troppo in tira. potrebbe mettere sì un po', non tanto peso, un po' di modo che abbi il gioco quando si piega per non aspettare il filo. Aspetta, che si pidare, si più a me. Vai, tranquillo Gianni, se io le schiumo anche, io le schiumo, con le storie di Emanuele, sono schiumate dentro, non si tronca un filo quando si pigia, non ti preoccupa, che non si tronca. Fai così, quando la smuti, magari quest'estate, per stare tranquillo, te la metti dentro 20-25 cm ogni pezzo e poi l'ultimo lo recuperi con un pezzo di canna da pesca. Nastri tutto, vulcanizzi, la vulcanizzi e tu sei tranquillo. Ma vulcanizzata tutta? Esatto, tutta la devi vulcanizzare, perché la fibra, se no, col tempo si sfibra quella resina lì, capito? E si vetrifica. E allora, una volta che perde la vernice, diciamo, che ha, e inizia a sfibrare, capito, a consumarsi. Vabbè, chi c'era poi? C'era Claudio, c'era Benito, insomma, non so, chi vuole entrare, avanti, Claudio ci sì. Vabbè Claudio, io non l'ho ancora sentito. Prima ci sono già mezz'ora più, io Claudio non l'ho sentito, ma prima c'era Claudio, prima di entrare io. E allora? Avanti, prima. E appunto, perché io non l'ho ancora sentito? E poi sarebbe entrato Claudio, cosa? Sarà impegnato. Ma io non l'ho sentito facendo quel ripimento, io perlomeno mi sono allontanato per andare in bagno, dico. Ah ecco, no, allora me l'ho persa quella perché io sono andato in bagno e sicuramente me l'ho persa. Allora, Luca, allora questi soldi mandateli a questo qua. Lucrezio, anche Luca è scomparsa, tutti scomparendo stanno. Io. Comunque Giulio, io sono sempre del parere che l'antenna, quella in alluminio è sempre migliore, no? Dura di più nel tempo e tutto. Io ho voluto fare una prova con questa antenna, però non sono molto soddisfatto. Secondo me la Mantova è la numero uno. Ma questo lo sappiamo già, strutturalmente la Mantova è sicuramente la numero uno, non ci sono dubbi. Bisogna vedere, questa magari ce l'abbiamo da poco e bisogna anche vedere se nel tempo dura molto o meno, e chi lo sa, staremo a vedere. Anche il materiale, come stavate dicendo voi poc'anzi, la resina prima o poi incomincia a consumarsi, a rovinarsi, e poi chissà che fine farà, lo sappiamo. Certo, la Mantova è Mantova, solo quando mette lo stilo centrale, il tubo di base, proprio quello che ha la base, è 4,5 cm di diametro, caspita, sembra un tubo innocente, sembra, è una meraviglia come struttura. Io ho la Mantova tubo, l'unico problema che gli ho trovato è sempre quello, il difetto, quello dei radiali, vabbè, che quello non è un difetto, ma è così, perché il vento purtroppo la fa suonare. L'altro problema era che di tanto in tanto si interrompeva il fatto di essere controcircuitata, perché c'è quella bobina interna che è messa in una maniera molto messa male, secondo me, perché un contatto migliore l'avrebbero dovuto fare, non questo taglietto solamente e poi appena martellata col taglio di un cacciavite, no, non va bene. Tant'è vero, basta un piccolo movimento dello stilo centrale, quello, oppure un po' di ossido e non fa più contatto e non è più cortocircuitato, anche se l'antenna funziona sempre alla grande, non ci sono dubbi, però se nasce cortocircuitata deve rimanere sempre cortocircuitata, io la penso così. Avanti Luca. Sì, no, io non sono andato via, stavo rispondendo a un messaggio al telefono. Giulio, ma tu con tutto lo spazio che hai, perché non ti metti un dipolo? Caricato, al limite, intanto devi fare solo ascolto. Te lo metti caricato e guarda, ci guadagni molto perché è orizzontale. Infatti ci ho pensato tante volte, perché dovrei mettere qualche altro palo e tenerlo, perché non è che lo posso mettere il dipolo sul tetto, sempre un po' distante sopra il tetto lo devo mettere, no? Infatti stavo cercando di adesso di sfruttare sia il palo dell'antenna e anche il palo dell'antenna TV. almeno quelle, stavo cercando di sfruttarlo, però non è sufficiente, perché se devo ascoltare in 40 metri, va bene, posso fare un dipolo accorciato, non ci sono dubbi, però è sempre un handicap, perché se il dipolo è per la sua lunghezza d'onda, non intera, ma mezz'onda, è senz'altro un'altra cosa. Infatti, ma si può mettere anche piegato, non è che non si possa mettere ad angolo, dai, a squadra, poche parole, funziona bene lo stesso. E vabbè, adesso sicuramente in qualche maniera la troverò il sistema, quando magari incomincio a fare tempo buono, perché avanno su buoi sci fuori, sempre più endi, e poi non mi va di uscire fuori adesso. Va bene. Sì, magari va bene anche costruendo un dipolo, solo per la lunghezza d'onda della 27 e mettendolo in ascolto per i 40 metri, io penso che vada bene lo stesso, Luca. Certo che va bene, ma te lo fai caricato in modo da avere tutte le due o tre bande che ti interessano, capito? Ti fai un bel dipolo caricato e vedrai che ti trovi benissimo. E poi commuti alla verticale quando devi usare la verticale, oppure fai una radio una all'altra, non so quanti HF o ricevitori hai. No, la radio è sempre quella, però in quel caso lì cosa faccio? Faccio un dipolo, faccio un'altra calata, faccio di capo coassiale e metto il commutatore d'antenna. Se voglio ascoltare è commuto, no? Se voglio poi lavorare in 27 è commuto ugualmente sulla 27, niente di più, non è che posso fare diversamente. Va bene, dai, benito. E tu, allora stai usando l'antenna l'antenna da macchina, quella la migliore, dai, diciamo, da 2000. Ok, qui da me Santiago 8, sì, pieno, e modulati tranquillamente a DV9 e un po' oltre anche. Vabbè, magari siamo anche vicini noi, però già va bene, andate per sentire. La radio non si discute, la radio è l'ultima, è perfetta. Bene, bene, avanti Gianni. Gianni, drommi. No, questa è Cicita. si vede al telefono, dai. Sarà al telefono. Vediamo se c'è Claudio in ascolto. Claudio, ti scegli o no? Sì, avanti Nicolo. 9:10, 9:15 quasi, quasi. Sì, si arriva. Mi sono dimenticato di saltarti prima. L'antenna c'è zona poste. Sì, sembra una buona antenna. Avanti, chi c'era? Benito? Ciao Benito. Sì, ciao anche da parte di Nicola, Lupo Grigio, te lo saluto io perché se tu non lo senti. Ci sentiamo alle prossime, anzi fatti sentire. Comunque sempre un'ultima radio la tua, dai, alla grande. Nicola, Vito, anche Benito ha l'antenna da macchina, però ha l'antenna buona, e mi arriva più forte di te, nonostante che è più lontano di quanto lo sei tu da me, per dire, no? Lo so, tu hai ragione, lì arrivi bene per quelli di Sassari, ma io che sono qua nella Borgata, non è che arrivi molto bene, arrivi a Santiago sì, la radio è bassa, ti sento, adesso ti sento, perché la frequenza è pulita, non c'è QRM, ma se dovesse ad esempio piovere, tanto per fare un esempio, allora avrò molta difficoltà nell'ascoltarti. Dunque, sì, va bene, sulla caldaia dove hai messo la magnetica va bene, ma va bene solo per Sassari, ma non per me che sono fuori all'esterno. Comunque, va bene lo stesso, finché ti ascolto sono contento. Avanti Nicola. Questa frequenza lavora in verticale, il solo fatto che sia in orizzontale già perdi molto. Però cosa succede adesso, avendo tu la magnetica attaccata al fianco della caldaia, è chiaro, la metti in orizzontale perché solo così la puoi utilizzare, diversamente non la puoi utilizzare, perché se la metti in verticale, sei già affiancata alla caldaia, probabilmente fanno fatica anche a Sassari a sentirti, non solamente io, Comunque questa frequenza lavora in verticale, i maggiori segnali si ottengono sempre in verticale, ecco qual è la differenza. Nicola, tu dovresti cercare di metterla nella finestra, almeno nella finestra, una staffa e la fai uscire fuori, ti compri una boomerang, costa una trentina di euro, 30-35 euro, e esci bene, perché esci bene, basta vedere che ce l'ha, ad esempio, ce l'ha Bombolo, ce l'ha la boomerang, ce l'ha Gianni Lubrofetta, insomma, vanno bene. Tu mi dirai, ma loro ce l'hanno sul tetto, certo, loro ce l'hanno sul tetto, però escono benissimo, così escono benissimo. Tu invece praticamente sei in orizzontale, tra l'altro sei dentro nel poggiorno, è come se fossi dentro casa, con l'antenna dentro casa. Ripeto, per tutti quelli di Sassari va benissimo, non c'è problema, ma per arrivare oltre non è facile, ecco cosa intendevo dire, Nico. Va bene, dai, comunque avrai modo di rimediare la assuria. Avanti Gianni. Il problema suo non è tanto l'antenna, è quanto che lui si trova in mezzo a dei palazzi ed è al primo piano, quindi non può uscire un'antenna lì, non può irradiare, è quello che c'è Giulio, non può irradiare l'antenna lì. Lui si deve mettere in testa che se la mette sul tetto ha fatto 13, se no è quella lì, è una zona buona, perché dove abita lui io lo so ed è una zona buona, c'ha tutto libero. Purtroppo lui non si vuole decidere a mettere questa antenna sul tetto, perché manco io sono sicuro che anche se lui mette la bomba anche lì non esce, perché è circondato da palazzi. Sì Gianni, ma però dovrebbe migliorare sicuramente. Anche la boomerang, anche se è messa a solo piano, non sarà una grandissima antenna, è chiaro che vuole sempre installata sul tetto, però rispetto a quella che ha adesso, senz'altro migliorerà, non ci sono dubbi, questo ne sono più che convinto, perché se la metti nella finestra guadagnerà sicuramente del segnale, sia in trasmissione che in ricezione. Io penso che sia così, indipendentemente dal fatto che magari lui è circondato anche da palazzi, tanto meglio, proprio perché è circondato da palazzi, di metterla più all'esterno possibile, invece lui ce l'ha dentro casa in pratica l'antenna, perché se ce l'ha nel poggiolo ce l'ha dentro casa, perché lui è completo non solamente dai palazzi, ma addirittura dai muri della sua casa stessa, così io dico così, e penso che non nessun altro possa dire diversamente. Avanti Luca. Se può la deve mettere un'antenna seria, diciamo così, poi uno bisogna avere quanto vuole spendere, può spendere o può mettere nel condominio, però se la può mettere sul tetto guadagna tantissimo. Certamente sì, ma questo l'abbiamo detto tante volte, sul tetto sarebbe l'ideale, perché l'antenna ha bisogno di essere libera, cioè sul tetto vede l'orizzonte di tutte le altre antenne, per cui è chiaro che è così. Ma Edo, lui evidentemente ha problemi di salire sul tetto per mettere l'antenna, capito? Se no io addirittura qualche tempo fa gli avevo addirittura consigliato di interpellare a te, fargliene una tu, canna da pesca, è una canna poco ingombrante e va benissimo, va alla grande. Però lui probabilmente non vuole avere problemi col condominio, che ne so. Adesso ce lo spiegherà lui. Avanti Nicola. Metti piuttosto un H155, piuttosto che un 58. È molto simile, sì, però è tutto un altro capo, capito? L'80% vi dà? Sì, cos'è già? Ho detto l'80% danno sulla facciata, mi sa. Che dà un contributo dell'80% sulla facciata, se la fa. Lo so, te l'ho spiegato, che anche con la riunione abbiamo fatto lui, ti cambiano, possono venire dentro casa, cambiare l'impianto elettrico, metterlo a norma, metterti a norma l'impianto idraulico, quello dei termosifoni, un po' con questo cambiare termosifoni, un po' qua. Mandano degli ispettori per ispezionare il lavoro che ce l'hanno. No, qua ci abbiamo tutti i telosi fluidi, ce l'abbiamo tutti. Solo che bisogna vedere se tutti ci stanno a questa roba qua. Quindi fanno metà del palazzo, la parte retrostante no. Vabbè, dai, è sempre un figuraccio. Comunque noi ci hanno presentato questi ispettori della banca, che si interessano alla banca praticamente su quello che ti devono dare, te l'anticipano e poi la banca fa dei soldi alla regione, però c'è sempre un guadagno da parte della banca, lì secondo me non conviene. Ne abbiamo già parlato, io infatti non lo faccio perché ho messo la veranda, quindi non posso, se mi do la tappa in piedi se vengono ispettori, basta controllare. Vabbè, dai. Comunque l'unico abuso è quello, non è che l'abbiamo tutti, l'abbiamo messa tutti qui. Avanti giù. Sì, e beh certo. Non so, ci sono dei contributi. Vabbè, ma uno non è che per mettere l'antenna c'è bisogno di aspettare e fare la facciata, no? Caspita, evidentemente Nicola non si è voluto interessare più di tanto, se no un cavo in facciata nessuno glielo può proibire di farlo scendere, anche perché ci sono modi di farlo quasi scendere in maniera inosservata, per cui io la penso così. Poi ognuno sa di sé, è ovvio, questo io non insisto, però io non credo che ci siano delle difficoltà per far scendere un cavo in facciata. Vabbè, davanti gli buca. Adesso hanno fatto il bonus antenna, e occhio. Io ho fatto scendere dietro il pluviale giù. Appunto, c'è anche quello, si può fare anche, ma bisogna vedere se lui nella sua finestra scende un pluviale vicino, se è lontano non lo potrà mai fare, se è vicino si può fare un discorso del genere, diversamente no. Ma anche se non ci fosse il pluviale, nessuno le può impedire di far scendere un cavo, ma credo che esistano anche dei cavi quasi bianchi, per cui ancora meno evidenti, dai, quando li vedi in facciata, suppongo che ci siano. Vero Luca, esiste anche un quasiale a 50 ohm bianco? Quello marino. Sì, che esiste. Vabbè, se no lo mette nel fluviale, lo fa tingere poi quando fanno i lavori. Ma se no sposta il fluviale. No, io l'ho messo dietro, l'ho legato con le fascette, dietro, l'ho messo dietro il fluviale, non si vede nulla, non si vede, io l'ho messo anche dietro, la parte di dietro, non l'ho messo in facciata, però non si vede nulla, io ce l'ho a fianco, che scende a fianco a me, proprio nell'arco. Sì, ho dovuto fare un po' di fatica a arrivarci, ho dovuto mettere quelle fascette di No, ma tu già avevi fatto un bel lavoro, se bisogna arrangiarsi. Io abito all'attico, così che non ho questi problemi, capito? Così che io metto quello che... tutto che si... guarda, ho messo Delta Loop, cosa hanno a tifoni, cosa hanno a giubbuli, ma... Però è un casino, io capisco chi abita più nei piani sottostanti, o Iulia. Sì, d'accordo, il condominio, quello sì, sono d'accordo con te, che chiaramente se il condominio si oppone, incominciano dei problemi. Però bisognerebbe anche parlare col condominio, non credo che siano... Giustamente tu non devi recare nessun danno alla casa e tantomeno non devi nemmeno fare interferenze, perché se no è chiaro che il condominio si oppone, tutte queste garanzie le devi assicurare. Ma oggi come oggi, con le antenne che ci sono sul tetto, non creano più problemi, difficilmente creano problemi, ma molto difficilmente. Per cui è fattibile, insomma, ecco, è fattibile anche perché è un diritto di installazione dell'antenna. Vabbè, comunque, anche quello è da vedere, perché in certi posti magari si inunisce il condominio, dicono di no, e allora uno non è che si può inimicare tutti gli altri inquilini solo per aver fatto la cosa, il montaggio di un'antenna, questo no. Però ci sono modi e modi, suppongo che si possa fare, insomma la risoluzione si dovrebbe trovare. Avanti già. Sono al telefono, certo, avanti. Giulio, hai capito? Sono al telefono. Sì, aspetta che è intervenuto Nicola, avanti Nicola. Aspetta che è entrato qualcun altro che stava disturbando Nicola, aspetta un attimo. Chi era l'amico? Avanti. Non ti ho potuto ascoltare perché è arrivato un segnale più forte del tuo, però con una radio che non era per niente chiara, non si è capito niente. Dicevi Nicola, forse qualche splatter probabilmente, non lo so, dalle mie parti. Strano, eh? Sì, anche in... Anche cosa si può mettere, certo, di polo, però è ancora più ingombrante il discorso di polo, perché di polo ha una certa lunghezza, va montato per andare sempre bene in questa frequenza, va montato sempre probabilmente in verticale, a V invertita, tutto lì. Va bene, dai, comunque, troverai la soluzione. Avanti Luca. Casotto e le antenne oggi, anche perché magari devi passare nell'appartamento di quello, chiedergli la cortesia con l'antennista, tra l'altro attenzione, non è che puoi salire tu a meno che non sia un radioamatore, ma se no devi chiamare l'antennista che certifichi il tuo impianto, è tutta una rotta di scatole. E poi metti anche un dipolo, ma perdi tantissimo, capito? Perdi tantissimo perché siamo tutti in polarizzazione verticale, capito? Sì, ascolti, ti ascolta, ma fino a un certo punto, capito? Meno che non pompi. E così un casotto con le antenne, o Giulio, adesso vedo un po' per l'estate, non so se farmi un'altra delta loop per fare qualche collegamento o una skipper, mi sa che mi metto in cantiere. Eh beh, certo, Luca. Beh, se fai la delta loop non la puoi mettere su nella parte alta, anziché tenerla nella ringhiera, non la puoi mettere su in alto. Lì magari darebbe meno fastidio anche al condominio lì della tua zona, del tuo palazzo, dai. E sul tetto al piccio. Hai visto quanto è ingombrante la delta loop anche a un elemento? No, la metto lì del parascensore, la metto. Che caspita, no, poi siccome non la voglio mettere fissa, se la metto sul tetto e il vento messa così la tronca subito, capito? La metto nel parascensore in modo tale che se c'è la giornata di vento forte prendo la passo. Quella già è vero, già è una comodità sul parascensore, è una comodità perché te la metti bassa, te la metti e non c'è problema, certo. Vabbè, però vabbè, tu mi dai, è troppo in alto, troppo ingombrante a metterla su, hai ragione anche tu. Luca, che cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Tanto fare, ti fai una direttiva, sembra l'antenna TV, un po' più ingombrante, e ciccia, e te la lascio montata sempre. E quando ti occorre, non fai altro che commutare e usarla. Sembra facile a te, ce l'ho la direttiva per la 27 della Equantenne. Però non è così Giulio, perché ci vuole il rotore, ci vuole, capito, non è che la metti così la direttiva, e metti la direttiva per tenerla secca e pesta lì, non va bene, capito, non va bene, perché io avevo nella delta loop, avevo messo il rotore col control box, perché appunto giravi e i segnali ti cambiavano dal giorno alla notte, capito? Beh sì, è tutta un'altra antenna, io lo so. Indubbiamente sì, è vero, purtroppo non tutti hanno la fortuna di abitare magari in case singole così come sono io, che posso mettere l'antenna che voglio, anche se, e devo essere sincero, a me proprio antenne sul tetto non mi piacciono assolutamente, però quella minimo indispensabile ce l'ho, e ce l'ho da tanti anni, e per cui continuerò sempre così. E questo, il fatto di tante antenne sul tetto, è uno anche dei motivi che mi ha scoraggiato nel fare l'esame per l'radiamatore, perché ho pensato sempre, se io faccio l'esame del radiamatore, poi mi viene il pallino per mettere tante antenne e il tetto così, carico di antenne, non mi piace, non mi è mai piaciuto. Va bene, dai, facciamo girare, avanti Nico. Presente, ciao Nico. No, è che ho finito un intervento chirurgico e non... Sto ascoltando, vi ascolto, non c'è problema. Poi non sto entrando anche per altri motivi. E infatti non mi va, se no magari mi suona nel campanello e mi salgono i nervi, capito? Meglio che sto calmo. E ti ingessano tutto il tavolo. Infatti, mi ingessano, capito? No, non va bene. Si droga in antenna e la china. Ciao Natali! E devo fare ancora un intervento e ho finito. Già va bene il tutto per il momento. Sì, fondo scala, siamo troppo vicini, Nico. Sì, però siamo in orizzontale perdi tantissimo, perché siamo in polarizzazione verticale sulla 27, capito? Ma la ringhiera è in ferro. E fate una piastra. Gli fai una piastra, il piano di massa ce l'ha ugualmente. Capitolato. E allora, fai così e la metti in verticale, Nico, perché così in orizzontale perdi tanto. E capa, io già sono qui in accordo. Riprendete, salutoni a tutti comunque. Ciao Natali, ciao. Sì, beh certo, ma ognuno, ne avevo consigliato io tempo fa anche di fare una cosa del genere, metterla sul davanzale, se lui soprattutto se ha una ringhiera in ferro, tanto meglio, attacca un metro di tubo lì alla ringhiera e ci mette l'antenna, ci mette con una piastra e sicuramente migliora la sua situazione, non ci sono dubbi. Però lui non l'ha fatto, evidentemente non lo vuole fare o non lo può fare, non lo so. Sicuramente può essere anche una buona idea il fatto della piastra per avere un minimo di massa, diciamo, e va bene, andrebbe bene anche così, anche con l'antenna di macchina. Va bene, poi tra l'altro anche la mini turbo, si può immaginare, fosse stata almeno la 2000, allora sì, è un altro discorso ancora, l'antenna è più lunga, ma sappiamo benissimo che l'antenna quando è corta anche lo skip, per cui non c'è niente da fare. È una posizione un pochino balorda la sua, vabbè pazienza, avanti tu. Infatti si fa una 20x20 in alluminio, a L, e va benissimo. Sì, sempre. Qua sei sempre uguale, un attimo il telefono. Lui io non lo sento più, adesso non lo sento più. Anni ci sei? Non lo senti giù, lui parla però tu non lo senti. Infatti non lo sento. Non lo sento, adesso non lo sento, poc'anzi lo sentivo, ma adesso no. Vabbè dai, anche io mi allontano 5 minuti, rientro dopo, dai, se ci siete ancora, mi allontano 5 minuti, a dopo Luca, ci stai ancora all'ascolto. Sì, ora ti sento. Poc'anzi no, cosa hai fatto poc'anzi? Infatti, se non c'è piano riflettente non è possibile, dico, senza piano riflettente non è possibile. Stai lavorando con un solo polo caldo e basta. Senza piano riflettente non lavora la calza, diciamo, dai, la massa. E dunque non ti posso sentire, no. E così è, io boh, cosa vuoi che ti dica? Naturalmente si tratta di fare anche delle prove, però io la soluzione, visto e considerato che tu hai questo problema, avrei optato per una boomerang mettendola lì all'esterno, però all'esterno staccata dal muro almeno un metro, fai una staffa lunga che fuoriesce e l'antenna allora incomincia a essere ben fuori da quello che è la casa e sono sicuro che ti sentirò meglio senz'altro. Ok, d'accordo, dai. Lu, se mi stai ascoltando, fra un po' rientro, dai. Chiamami che mi leggero. Ciao. Gianfra. Gianfra. Claudio, sei tu? Sì, ti ho chiamato e stavo a uscire qua. 28, stavo facendo la prova, abbiamo finito. No, perché ero... ero su prima, capito? T'ho sentito qualche... mi ha fatto già la salute. Com'è questa area di radio? Come ti sembra? Questo è il vecchio 2000, il vecchio vecchietto proprio che è proprio in pensione, guarda. Vabbè, il 10.000 lo sai com'è, io l'ho avuto nemmeno e che mi piaceva molto, non spinge come questo, gappa. Sì, vabbè, io sento un po' il vintage, cioè sto trascurando le mie, i miei due gemelli, quindi invece che faccio un po' col capo, va bene, comunque abbastanza buona la radio. La tengo solo per ricordo, che se no, ma prima o poi mi dovrò rassegnare a farla fuori, anche questa troppo vecchia, anche se è stata revisionata da poco è tornata nuova, l'hanno guardata tarata, insomma, solo che la volevo forzare, quelli là anche di Mediacolo, come ha detto, ascolti, le diamo un consiglio contro i nostri interessi, se la tenga, che quella radio fa tutto, e infatti è vero, fa tutto effettivamente. Sì, fa tutto, va bene, io l'ho avuta, la usavo solo in due, una che non la usavo mai, poi l'avevo venduta per comprarmi i gemellini della Icon, non fa capito. Sono radio, ma quella di banda non mi piace proprio per quello, perché è una radio unica, se sei da una parte non puoi andare dall'altra, io ho tutte le radio separate, perlomeno avevo tutte le radio separate, adesso non c'ho più niente. Però per un radioamatore lo sai come funziona, no? Devi avere tutto sotto controllo, le nuvano qua, le nuvallate, HF, 50 mega, 80 mega, 70 mega, alla fine stava diventando una cosa un po' troppo. Va bene, aspetta un attimo, prendo un po' a cena. Ma c'è un chiuso, eh? No, ha chiamato la moglie ed è sceso giù. Piuttosto io per colpa non mi ha aperto l'altro microfono, sono tutti uguali, no? Stavo misurando la tensione all'alimentazione e mi sa che per questi microfoni è troppo bassa, perché i nuovi apparati adesso non tirano niente sul vuoto, ne hanno 5. Quindi stavo pensando, e se io ci metto la tua batteria, cosa succede? Cosa succede? Bisogna vedere che tensione mantiene, ma prova a fare l'esperimento, già faccio, poi metto un po' di accedere. Io vado a recuperare una batteria nel frattempo. Giulio! Ehi Luca! Pensavo ti eri perso. Stavo dicendo, ma tu li ascolti questi PMR, questi infermieri, Busa, C'è gente qua? Chi c'è qua? Non c'è nessuno, c'è adesso. No, beh, io l'ho già fatto, ma la buona vi ho sentito, scusate, buonasera a tutti. Vabbè, ci siamo già da un'ora. Però, diciamo che perlomeno io mi ero allontanato un attimino, adesso sono ritornato. Il PMR, chi c'è? Non ho sentito, aspetta che l'accendo. Questi infermieri si sentono, porta il pasto a quello, la flebo all'altro, l'iniezione a Ghidu. Quelli sono quelli in terapia intensiva, che non si possono allontanare perché sono vestiti che ho lo scaffandro, capito? Ma è un po' che li sento, un po' di mesi. Anch'io. Sono anche sopra sui canali speciali PMR, quindi hanno gli apparati a 16 canali anche. Ma Gianfra, l'hai fatta la prova? Hai provato a alimentarla? E da un bel si sente quello che fa gente. Non bisogna disturbarli, lasciatevi lavorare. Stanno facendo un lavoro spettacolare con una delicatezza e con molta serietà, ma soprattutto con tanta voglia di fare, ma l'ho messa adesso sull'altro apparato. Se ci spostiamo un attimino dove eravamo prima, così non disturbiamo qua. Vabbè, dai, facciamo fare questo. Allora, noi andiamo dove eravamo prima, sul 28, e così facciamo la prova. Sentiamo dopo Giulio e Luca. Ok, qua, non c'è problema, potete rimanere. Ciao, già sta. Potete rimanere, che problema c'è qua? Fate tutte le prove che volete, no? Noi ascoltiamo, va bene lo stesso. Abbiamo parlato a lungo intanto. No, noi eravamo sul 28, stavamo provando la radio di Massimiliano. Mi sembra che abbia avuto qualche problema. E niente, dovevamo lì, stavamo facendo le prove proprio perché canale 10, ho visto che c'era gente. No, fate pure, parlate voi, non ce n'è problema, ci spostiamo noi o Giulio. Poi entra altra gente, fatemi la mitendici, ping pong, prova qui e prova là. Le prove ci fanno dopo, non c'è questo. Vai al 28, Gianfranco. Sì, ciao Giulio, ci sentiamo dopo eventualmente. Esecutivo? Ok, d'accordo, a dopo allora. Avanti Luca. Gianni, ci sei? Luca, non mi hai detto niente per questa radio, vuol dire che sto andando bene, dai. Quello degli 883. Rappa. Che vuoi? Sto Roger. Sei il passo raso terra. Segnale 9, radio 3. Bassissima la radio, quasi non ti capisco cosa stai dicendo. Ecco. Avanti. Mi senti? Sì, a voglia. Adesso nero. Radio zero. Gianfranco, boh, qua non si sente più nessuno, non so se sono allontanati di nuovo, non lo so. Beh, io mi allontano un attimo, devo andare ai fornelli. Rimani qua, magari se entra Giulio e chiedo un controllo anche a lui. Per me va bene così. Che è fortunato, sì. Beh, sentiamo dopo Gianfranco che mi sfotto un attimo, ok? Sì, ok, stavo chiudendo il microfono. Vado a vedere se c'era Giulio. Giulio, ci sei? Prova. Prova. Test. Questo per proteggere la capsula, hanno pianeta, ma poi c'è anche quella della capsula, e quindi sono tre. Adesso ce l'ho aperto, quindi dovrebbe essere sufficiente, o vediamo quanto è il coso, cosa sempre a 69. Dovrebbe essere sufficiente, no? Mettine solo una di quella protezione, basta, il resto poi è tutto molto, molto più bella la modulazione, più chiara, più forte, più compatta, molto meglio. Sì, ovviamente adesso in questo passaggio ci ho dovuto mettere la sua, come si chiama, la gratta, dai, sennò il microfono si risulta aperto. Ha cambiato qualcosa? No, va bene, non ha cambiato niente, lascialo così. Ok, tanto oltre non si può aumentare, cioè volendo tecnicamente lo potrei aumentare, ci metto un microamplificatore all'interno, ma va a finire che poi mi scambiamo per coso quello che c'è sul 46, il cambio basso. No, va bene, sembra più corto Gianni, ma no, molto molto meglio Gianfra, l'ho lasciata così, alla grande. Perché c'è anche il compressore interno a questo microfono, ho letto le caratteristiche ed è ottimizzato per quel lavoro lì, sì, sta un pochino più di picco infatti, lo sto guardando, vediamo aumentando al massimo cosa succede, questi in compenso di buono c'hanno che è molto... molto difficile farli innescare, adesso al massimo è come il Mickey Game, è successo qualcosa, no? No, va bene, ho aumentato un pelino l'amplificazione, ma è bella, chiara, comprensibile, non è forte, va bene. Ok, lo rimetto come era all'inizio, così quindi dovrebbe andare. Vabbè, caspita la propagazione ragazzi. Ci sono i tedeschi dappertutto, c'è un'invasione di questi tedeschi, non ho capito come mai, perché anche lì c'è freddo, di norma dovrebbero arrivare quando c'è molto caldo, chi ne capisce è bravo. Guarda, anche l'altro giorno c'erano un po' di tedeschi, anche qua sul 10, però stavano in FM, infatti ci hanno rotto le palle quando stanno in FM, disturbano, ci sono segnali bassi, disturbano, capito, l'FM arriva fortissimo. No, io non ho girato niente, la verità, ero un po' impegnato in altre cose di casa, e come hai visto anche se ho portato, mi sono soltato due o tre volte. Va bene, tutto qua, non c'è rimasto più nessuno qua nel canale, c'era Giulio, Luca, non c'è più nessuno. No, mi stavi di no, ho chiamato anche poco fa Giulio, se c'era, ma evidentemente a quest'ora forse già avranno chiamato per cena. Non lo so, comunque pensa, dal punto di vista tecnico è un buon microfono, comunque questo nero si è, non dà mai seccature, soprattutto di innischi, no? È molto molto resistente, forse perché non ne hanno portato troppo l'amplificazione, forse proprio per quello. Comunque la capsula è la classica elettrica a condensatore, quindi niente di praticamente un euro, forse neanche 50 centesimi di capsula. Sì, non costano niente, assolutamente. No, io ho visto provando il canale più 3, se lo aumento appena appena mi fa quella pernacchietta, però quello non è modificato perché è molto acuto. Molto acuto, ma l'hanno lavato. È molto acuto, però lavora molto bene col Boni, col 23 canali, più bello MBP5, mentre l'MBP5 li ho messi sugli altri. Vabbè, comunque la prova l'abbiamo fatta, la linea di massima, già va bene, adesso mi sono seduto un po' qua, di fronte in cappa, a farle andare un pochino, che l'altro giorno spenti, però questi se lo possono permettere, ma è spenti, questo non se lo può permettere un 440, per carità, per carità. Che radio difettosa, che... mamma mia, poi sono difetti così, cazzo, sono difetti così, hai visto la Massimiliano, così, c'è data a posto, subito un difetto, è una radio che non posso più vedere, cazzo. Perché alcuni li hanno ottimizzati esclusivamente per le bande laterali, c'è poco da fare. Anche gli Aesu te li raccomando,